19. Gli uomini del dipartimento consumavano la cena seduti in semicerchio, troppo stanchi per parlare. Navigavano da 10 giorni e i segni del viaggio erano sui volti di tutti. Al calar del sole, il convoglio si era accampato su una riva scoscesa. Avevano piantato le tende e acceso i fuochi, un grappolo di calore e luce fioca abbarbicato ad alberi e rocce. Il cibo e il rum ridavano forza. Quando Cormac MacLeod raggiunse il gruppo, il fumo di sigari e pipe si era già unito a quello del falò. Lo scozzese aveva l'aria torva, riempì un piatto e prese a mangiare. «Come sta vostra moglie, signor Johnson?» «Non troppo bene», rispose Guy. «Questo viaggio ci sta sfiancando». Mentre accendeva la pipa, Joseph Brant osservò il gentiluomo irlandese. La pinguedine che gonfiava gli abiti era meno pronunciata, il volto arrossato dal sole. «Mi chiedo che posizione prenderanno gli Oneida», aggiunse Guy Johnson, quasi volesse scacciare la preoccupazione per la moglie. «Verranno al concilio, ma non si schiereranno», commentò Klaus in tono annoiato. «Potete scommetterci», aggiunse Butler. «Sono dei codardi. Facile che l'abbiano consegnato loro ai ribelli, il vostro messaggero». Fece un gesto brusco con la mano. «Faranno le verginelle, così gli Onondaga e tutti gli altri. Ma se offrite più rum di quei maledetti Whig e regalate tutta la polvere da sparo che vogliono, vedrete come vi staranno dietro». Johnson fece per replicare, ma MacLeod intervenne brusco. «Mi accontento che arriviamo sani e salvi al concilio». «Che intendete dire?» Lo scozzese lanciò un'occhiata alla notte che ammantava gli alberi. «Queste foreste non sono sicure. Un convoglio di barche è un bersaglio facile. Temete un'imboscata?» «I ribelli potrebbero aver comprato una tribù dei dintorni». Guy Johnson si rivolse a Joseph. «Cosa ne pensa il nostro interprete?» L'indiano scosse il capo. «Nessuno farà nulla prima del concilio». «Sentito, vecchio mio?» intervenne Butler. «È presto per preoccuparsi dello scalpo». Lo scozzese si ingobbì, avvolgendosi in una coperta. «Mi sentirò più sicuro quando avremo superato il grande trasbordo». Joseph notò che Peter ascoltava con attenzione. Si alzò e fece segno al ragazzo di seguirlo. Avrebbero fatto insieme il primo turno di guardia. Lo condusse al fuoco dei guerrieri anziani, a ricevere la benedizione di Tecarioga. Anche loro sedevano in circolo e fumavano. Alcuni, già vinti dal sonno o dal rum, russavano sotto le stelle. Il vecchio Sakem era tra questi. Proseguirono fino all'avamposto presidiato da Catawanakon e Sakienakenta. Joseph disse loro di andare a riposare. Prima di andarsene, i due guerrieri indicarono una sagoma scura sotto un vecchio salice. Peter si mise allerta, ma lo zio gli fece segno di occuparsi del fuoco. La croix era un'ombra che annusava l'aria. «Cosa c'è?» chiese Joseph quando gli fu accanto. «Non siamo i soli ad accendere fuochi». Indicò le cime degli alberi. Joseph scorse un filo di fumo chiaro, appena distinguibile, a meno di un miglio. «Cacciatori?» «Forse». Joseph tornò al falò. Peter aveva preparato del tè nero. Bevvero in silenzio, tenendo le tazze fumanti con due mani per scaldarsi. «Zio Joseph?» «Cosa?» Peter accennò all'ombra sotto l'albero. «Avete combattuto insieme, vero?» «Tuo padre ci portò in guerra. Avevamo la tua età». «E poi?» «La moglie e la figlia furono uccise dopo la guerra. Da allora si è ritirato nei boschi». «Perché lo chiamano il grande diavolo?» Joseph sapeva che prima o poi avrebbe dovuto rispondere a quella domanda. Tutti i giovani guerrieri rimanevano colpiti dalla croix. «È un nome che gli hanno dato i nemici. Raccontavano storie sul suo conto. Si è vendicato da solo». Per un po' il crepitare del fuoco fu l'unico rumore. Poi Peter fece una domanda che Joseph non si aspettava. Rimase zitto, guardando il fondo della tazza come se dovesse leggervi la risposta. Infine disse: «Sì, è mio amico».